Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Le borse, netto il peggioramento nelle ultime ore con Wall Street chiusa oggi per il giorno del ringraziamento, Thanksgiving, ma soprattutto pesano le incertezze, per essere quasi buoni, sulla tenuta finanziaria di Dubai World e quindi della società più importante di quel paese. Che ci fosse una crisi immobiliare a Dubai è cosa nota, la diciamo da oltre un anno e mezzo, da quando è scoppiata la crisi finanziaria più complessiva. Ebbene, l'esposizione dei gruppi finanziari, devo dire a livello europeo, sta penalizzando fortemente tutti i listini, con cali superiori al 3%, il 3,5% in questo momento è il calo di Milano, Parigi perde il 3,3%, Francoforte il 3%, Londra il 3,1%. E appunto i cali sono particolarmente significativi su alcuni gruppi bancari, ma non solo, perché Exor di nuovo è il peggior titolo, meno 5,6% tra quelle maggiori capitalizzazione, e poi segue Pirelli meno 5,50%, Mediolanum meno 5,4%, Mondadori meno 5%, Finmeccanica meno 4,7% come Buzzi Unicem e le CIR, il 4,5% lo perde Impregilo e anche il Banco Popolare. Italcementi pure perde il 4,5%, Tenaris il 4,2% come Unicredito delle Generali, ancora Unipol meno 4%, ST Microelectronics meno 4%, insomma è pesante la giornata oggi, continuo con i titoli che perdono più del 3% e si chiamano Fondiaria Assai meno 3,80% come Intesa San Paolo, il Monte dei Paschi e Ubi Banca, Prismian meno 3,6% come Bulgari, Telecom meno 3,5%, il 3,2% lo perde Saipem, il 3% Autogrill, ma anche Atlantia e Geox e Fiat. Chi guadagna? Niente, nessuno. Terna è invariata del miglior titolo tra quelle maggiori capitalizzazioni. In assoluto il titolo peggiore del listino in questo momento è la compagnia immobiliare azionaria, la CIA, meno 9,7%, Eutelia meno 9,3%, Societe Generale meno 9% e AXA meno 8,6%, Mediterranea Acqua il migliore più 6,2%. Dicevamo di Dubai, beh, insomma avrete letto anche sui giornali che l'emirato di Dubai, pressato dai debiti, ha fatto sì che la società statale, la Dubai World, si trovi alle prese con 59 miliardi di dollari di passività, cioè stiamo parlando di un paio di manovre finanziarie di un paese come l'Italia e la Francia, giusto per dare l'idea. La società sta anche cercando di negoziare un bond islamico da 3,5 miliardi, e intanto ha chiesto a tutti i fornitori di finanziamenti una moratoria, cioè una sospensione del rientro dai debiti contratti, e di estendere le scadenze almeno fino al 30 maggio 2010. È chiaro che tutti i credit default swaps, cioè i costi per assicurare il debito di Dubai contro il rischio di fallimento, sono schizzati e sono precipitati i titoli obbligazionari, i prezzi dei bond. Tra l'altro a Nakheel, altra società di Dubai, fa capo anche un debito da quasi $1 miliardo in scadenza il 13 maggio. Il fondo Dubai World invece ha un'obbligazione islamica da $1,2 miliardi in scadenza il prossimo 31 marzo. Insomma, molte tensioni sul mercato di nuovo delle obbligazioni, e il mercato va a punire tutti i titoli bancari, soprattutto che ritiene esposti nei confronti di Dubai. Ne parleremo durante l'aggiornamento di borsa, parleremo anche della legge finanziaria e di quanto è emerso oggi a Roma, e poi nella seconda ora del programma avremo anche un approfondimento su una privatizzazione in cui bando dovrebbe essere pubblicato entro 2 giorni, se abbiamo ben capito le dichiarazioni del ministro Matteoli, la privatizzazione di Tirrenia, molto attesa, è una società che, lo dico subito, al di là del fatto che sia oberata anche dai costi dei servizi di garanzia con le regioni, penso al collegamento con la Sardegna, ma non solo, insomma riesce a perdere 73.000 euro per ognuno dei suoi dipendenti, peggio dell'Italia che ne perdeva nei tempi d'oro, si fa per dire, 25.000 euro. Ed è una società abbastanza così particolare, perché c'è lo stesso presidente da 18 anni, nulla di male, però insomma evidentemente questa è la situazione di Tirrenia e i possibili, chi è interessato a comprarla dopo la privatizzazione ha già detto che non vuole trattare con i vertici di Tirrenia ma solo con Fintecna o direttamente con il Tesoro. Comunque ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. La Cina, parliamo di Copenaghen, quindi di ambiente, ha detto che entro il 2020 vuole ridurre l'ammontare di emissioni a effetto serra, quindi a intensità carbonica, del 40-45% per unità di prodotto interno lordo. E ancora il ministro agli esteri Franco Frattini, nostro ministro agli esteri, ha detto a Copenaghen: non possiamo fallire. Se l'America è pronta a ridurre le emissioni del 17%, l'Unione Europea del 20% e la Cina è pronta a fare la sua parte, si potrebbe arrivare a un accordo che non è ancora un trattato, ma sarebbe vincolante sotto il profilo politico. Veniamo all'Italia. Oggi diffuso il dato su ottobre per quello che riguarda la bilancia commerciale con i paesi fuori dall'Europa, quindi esportazioni e importazioni, positivo per 117 milioni di euro contro un deficit nel nostro export fuori dall'Europa, anzi nella nostra bilancia commerciale fuori dall'Europa, che era di 366 milioni di euro nell'ottobre del 2008. Allora qui il dato è un po' paradossale, ma cosa succede? Che calano più le importazioni di quanto non calino le esportazioni, più volte l'abbiamo spiegato, e quindi il saldo è positivo, anche se il segno meno sulle esportazioni è pesante, meno 23% a ottobre rispetto a ottobre del 2008 il nostro export, solo che le importazioni hanno fatto peggio, cioè meno 26%, ecco perché il saldo è positivo. Tra l'altro c'è un calo non bello del nostro export anche mese su mese, cioè ottobre su settembre 2009, meno 9%. Si è parlato di Mezzogiorno, del sud dell'Italia, nel convegno del Mezzogiorno e la politica economica dell'Italia, un convegno organizzato dalla Banca d'Italia, è intervenuto lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Abbiamo tutti bisogno dello sviluppo del Mezzogiorno, tutte le parti del paese e quindi anche il nord hanno bisogno che il Mezzogiorno si sviluppi, se vogliamo avere un recupero e un rilancio dell'economia italiana nel suo complesso, una crescita più sostenuta nel prossimo avvenire. Ed è essenziale dare attenzione alle ricadute nel Mezzogiorno delle politiche nazionali. Il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, sempre sul tema del sud, ha detto: c'è un'economia che dà risultati deludenti da troppo tempo, da un lungo tempo. Il divario di PIL pro capite tra il sud e il centro-nord del paese è rimasto sostanzialmente immutato per 30 anni. Nel 2008 era pari a 40 punti percentuali, cioè fatto 100 quello che è il PIL pro capite nel centro-nord, al sud è 60. E ancora, il sud, in cui vive un terzo degli italiani, produce solo un quarto del prodotto nazionale lordo, del PIL, ed è il territorio arretrato più esteso e popoloso di tutta l'area europea e dell'euro, che non è certo un bel primato. E ancora Draghi ha detto: c'è un ritardo allarmante nel nostro Mezzogiorno sui servizi. Il divario tra sud e centro-nord nei servizi essenziali per i cittadini e le imprese rimane ampio. Le analisi che presentiamo oggi rivelano scarti allarmanti di qualità tra centro-nord e mezzogiorno nell'istruzione, nella giustizia civile, nella sanità, negli asili, nell'assistenza sociale, nel trasporto locale, nella gestione dei rifiuti, nella distribuzione idrica. E poi il governatore è intervenuto anche sul federalismo fiscale, ha detto: sarà un'occasione per rendere più efficace l'azione pubblica solo se l'imposizione e la spesa a livello decentrato, quindi pressione fiscale e spesa delle regioni, premieranno l'efficienza, solo se gli amministratori locali saranno capaci di indirizzare risorse verso gli usi più produttivi, altrimenti i divari già esistenti si aggraveranno. E dopo aver ricordato il peso della criminalità sull'economia del nostro sud, Draghi ha avuto anche un riferimento, anche se indiretto, alla Banca del Sud. Non ha mai citata direttamente, ma ha detto: insomma, nel sud nascono tante nuove banche quante ne nascono nel resto d'Italia. Tenuto conto del diverso peso economico, i nostri dati, ha continuato il governatore della Banca d'Italia, mostrano che non ci sono marcate divergenze nell'andamento del credito bancario tra il centro-nord e il mezzogiorno. Allora, la vicenda Fiat e Termini Imerese. Dopo le parole di ieri del ministro Scajola, oggi ha risposto il numero uno della Fiat, Sergio Marchionne. Scajola aveva definito una follia chiudere l'impianto di Termini Imerese. Marchionne ha detto: per esperienza mia e personale, prima di usare un linguaggio pesante come il termine follia, uno dovrebbe capire i dati. E poi ha aggiunto Marchionne: il ministro Scajola sa molto bene qual è la situazione di Termini Imerese e ha parlato a nome di tutti. Tra l'altro, su Termini Imerese è intervenuto oggi anche il segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani, il quale ha detto: attenzione, lo stabilimento Fiat in Termini Imerese è strategico per il sistema paese, per il mezzogiorno. Poi il nostro GR vi ha già dato la notizia, che è uscita pochi minuti fa, la CGIL ha proclamato, non c'entra nulla con Termini Imerese, ma sempre la CGIL ha proclamato lo sciopero generale per il prossimo 11 dicembre nella funzione pubblica. La vicenda dell'Alcoa, dunque, momenti di tensione a Porto Vesme, anzi momenti di tensione, scusatemi, a Roma, dovuti ai lavoratori dello stabilimento dell'Alcoa di Porto Vesme, tensione fra gli operai e le forze dell'ordine. Però oggi è arrivata una proposta da parte dell'Alcoa di congelare le procedure per l'avvio della cassa integrazione fino al prossimo 7 dicembre, con la possibilità di discutere delle tariffe energetiche e cercare una soluzione nuova entro il 21 dicembre. Questo appunto è arrivato dalla dirigenza di Alcoa Italia ai sindacati durante l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. L'Ilva di Taranto ha invece fissato in 4.500 dipendenti il tetto massimo di casse integrati a partire dal 7 dicembre per 52 settimane, un accordo firmato con le organizzazioni sindacali. E due notizie che ci riguardano: il bilancio di Confindustria, presentato oggi in giunta, ha evidenziato un avanzo di oltre 6 milioni di euro per il 2009, nonostante, venga evidenziato in una nota, si sia registrata una riduzione dei dividendi distribuiti dal gruppo Sole 24 Ore di oltre 3 milioni di euro. E poi, sempre per quello che riguarda Confindustria, il nuovo presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia, lo ha eletto il Consiglio Centrale della Piccola Industria. Boccia succede a Giuseppe Morandini e diventa anche di diritto vicepresidente di Confindustria. Adesso ci occupiamo della finanziaria 2010. Proseguono infatti in Senato sia la discussione che l'esame della finanziaria 2010. Ieri si è saputo, come immagino avrete letto, che la manovra 2010 non conterrà tagli né per l'IRAP né per l'IRPEF né la cedolare secca sugli affitti. I 4 miliardi che dovrebbero arrivare dallo scudo fiscale verranno tutti destinati a welfare, sicurezza, istruzione e giustizia. Tra le misure che dovrebbero entrare in finanziaria ci sono 1 miliardo di euro per gli ammortizzatori sociali, quindi dovessero servire per nuova cassa integrazione, e per i co-co-co e anche per gli ultra cinquantenni, 500 milioni per edilizia penitenziaria, il potenziamento e lo sviluppo del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e risorse per avviare i lavori del ponte sullo stretto. Il ponte sullo stretto è chiaramente prioritario. Ancora, oggi è tornato sulle disponibilità finanziarie il ministro Tremonti, che ha detto: ci sono 4 miliardi di euro e non un euro in più. Ancora, se ci sarà bisogno di fare nuovo deficit, lo si farà solo per la cassa integrazione. L'ho detto sempre il ministro Tremonti, intervenendo ai lavori della Commissione Bilancio della Camera sulla legge finanziaria. Io credo che sia stato giusto mettere tutto quello che avevamo disponibile sugli ammortizzatori sociali, e vi chiederemo di condividerlo e di votarlo, di confermare gli stessi numeri sul 2010 aggiungendo qualcosa, modificando alcuni criteri per andare incontro a una realtà che noi riteniamo sul 2010 ancora da gestire e da valutare con grande prudenza e attenzione. Comunque, per essere chiari, e qui lo dico anche col circuito aperto, se c'è, e io spero che non c'è bisogno di fare deficit, si fa solo sulla cassa integrazione. È chiaro il concetto? Che tra l'altro è coesione sociale, conservazione della domanda, ma corrisponde soprattutto a un'istanza che noi abbiamo profondissima, che è quella della giustizia sociale. è l'unica causale in cui, se nel corso del 2010 ci sarà bisogno di risorse, ragioneremo sulle risorse, ma è l'unica causale che ha una cifra etica e morale e sociale condivisibile e ragionevole. Credo che quello che sto cercando di dire è un po' diverso da quello che viene detto comunemente. Sì, forse è stata gestita la crisi, ma ha chiuso tutto in modo non selettivo. Quello che sto cercando di dire è che abbiamo fatto cose diverse. Poi uno può dire giuste e sbagliate, ma non trovo generosa e giusta l'accusa. È andata anche bene, ma avete chiuso i boccaporti. Non è esattamente così. Abbiamo concentrato tutte le risorse che avevamo sugli ammortizzatori sociali e, vedrete nella finanziaria, continueremo a farlo e anche qualcosa in più. Finora l'esperienza è stata positiva. I dati che riceviamo dall'INPS sono come segue. In ottobre la cassa integrazione è stata meno 10% rispetto a settembre. E quindi un'inversione, una buona inversione di tendenza. Così il ministro Tremonti, che ha risposto anche alle accuse che sono arrivate dal ministro Brunetta e dal senatore Baldassarri di insomma, avere solo rigore, solo chiusura dei rubinetti e non politiche di rilancio. Poco fa il ministro Brunetta ha detto credo che il rigore non possa e non debba nascondere il conservatorismo. Rigore e modernizzazione sono le due facce della stessa medaglia. Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, abbiamo capito che l'unico motivo per cui il ministro Tremonti è disponibile ad aprire i cordoni della borsa e quindi fare di nuovo deficit è per nuovi ammortizzatori sociali, ma come ricordava Tremonti, l'abbiamo appena sentito, le domande di cassa integrazione per fortuna mese su mese sono in calo. Arrivano molti messaggi che chiedono di dire una cosa preliminare, ma insomma le finanziarie di una volta avevano importi di 10, 15, 20, 40 miliardi, quella famosa ipotaschioppa. Qui sembra una finanziaria che si muove solo sui 4 miliardi. Allora vorrei capire perché, perché 4 miliardi come misura è una misura molto molto modesta, non c'è nessun intervento sul deficit, mi sembra di capire. Sì, bisogna ricordare che in realtà questa finanziaria, per come l'ha presentata il governo e più volte il ministro Tremonti l'ha ricordato, è nient'altro che l'aggiornamento al 2012, vale a dire l'anno finale del triennio, della manovra triennale che è stata varata lo scorso anno, che ha quella sì diciamo previsto degli interventi di correzione del deficit. Quella di quest'anno non fa altro che confermare il deficit già previsto nella manovra triennale del 2008 e aggiorna però gli stanziamenti. In partenza la finanziaria valeva nella sua stesura originaria intorno ai 3-4 miliardi, ma già allora ricordo che il ministro Tremonti disse che poi in dicembre, appunto, ci stiamo avvicinando, quando sarebbe stato chiaro il quadro relativamente al gettito atteso dallo scudo fiscale, si sarebbe fatta un ulteriore aggiornamento delle risorse. Ecco, ora siamo arrivati alla scadenza e il 15 dicembre al momento è la data prevista per accedere allo scudo. Il ministro Tremonti oggi ha detto in commissione che il gettito atteso si colloca tra i 3,7 e i 4 miliardi. Ecco dunque le risorse e quindi aggiuntive. Il potenziamento della manovra. Sentiamo Tremonti ricordare come mai la stima sul gettito dello scudo fiscale dovrebbe essere intorno ai 4 miliardi. Noi abbiamo fatto un calcolo semplice, abbiamo detto se funziona come l'altro, considerando che l'aliquota è doppia, vengono fuori, diciamo, utilizzabili, sia pure in una logica una tantum, vengono fuori 4 miliardi di euro. I quali tra 7 e 4 miliardi di euro saranno oggetto della discussione / finalizzazione che si farà in questa sede, con alcuni obiettivi che ha il governo. Per noi è fondamentale che l'utilizzo sia per l'università e la ricerca, per i 5 per 1000, per la scuola, per fare alcune realtà di bisogno e di domanda sociale e poi naturalmente per altre finalizzazioni che si ritengono ragionevoli e utili. Allora, Dino Pesaro, chiarito il fatto che questo è il calcolo da cui si arriva a 4 miliardi, molti ascoltatori chiedono al 349-238-6666, ma se non arrivassero i soldi dello scudo fiscale cosa faremmo? Ma dall'indicazione che abbiamo noi, molto molto così provvisorie, parziali, parlando con chi nelle banche gestisce il rientro dei capitali tramite lo scudo, ne stanno arrivando tantissimi i soldi, quindi non penso che stanno scudando di tutto gli italiani che possono farlo e che hanno illegalmente portato i soldi all'estero. Comunque, Dino Pesaro, al di là di questo, resta sotto traccia la richiesta di invece un intervento sul fisco. Tremonti oggi ha detto: di materia fiscale ne parleremo dopo la finanziaria, anche con le parti sociali abbiamo già ridotto le tasse abolendo l'ICI, un pezzo di IRAP, per ora non se ne parla. Questo potrebbe preludere a nuove tensioni nella maggioranza? Beh, diciamo che questo è stato l'argomento che ha prodotto le tensioni nei giorni scorsi. Al Senato addirittura c'era stata quella che avevamo definito un po' semplicisticamente una contromanovra, quella presentata da Baldassarri, che però aveva ottenuto nel corso dell'iter anche l'assenso di molti altri senatori della maggioranza, e che si basava sostanzialmente sulla richiesta di ridurre la pressione fiscale e di operare un taglio corposo alla spesa corrente. Allora, i nodi sostanzialmente sono tre, cioè la riduzione dell'IRAP che è ancora in cantiere, cioè l'intervento sull'IRPEF a beneficio delle famiglie a basso reddito, e poi c'è la famosa cedolare secca del 20% sugli affitti, che sono i tre interventi fiscali che si sono rimbalzati dalla Camera al Senato e che ora sono usciti dalla finanziaria. Tremonti oggi ha detto che questa sarà materia di discussione della prossima, immagino della prossima primavera estate, quando si avrà forse anche una proroga, anche questo dobbiamo ricordare, dello scudo fiscale, se ne parla, potrebbe essere prorogato al 15 aprile, dunque ci si potrebbe anche attendere un gettito maggiore, ma oltre a questo è evidente che non è che si può poi finanziare con lo scudo fiscale una riduzione permanente di tasse, qui bisogna immaginare un percorso triennale, e questo credo che sia l'intendimento del governo e del ministro, cioè un percorso dal 2010 fino alla fine della legislatura in cui si possa immaginare un intervento sul fisco. Tutti lo auspichiamo, non so se sarà possibile, perché bisognerà vedere come saranno messi i conti dello Stato a metà dell'anno. Comunque, oggi l'annuncio di Tremonti è questo, ne prendiamo atto, speriamo bene. E quindi i soldi sono quelli che ricordavamo ieri, appunto 500 milioni per l'edilizia penitenziaria, fondo di garanzia per le PMI, credito d'imposta per ricerca e sviluppo, risorse per avviare i lavori del ponte sullo stretto. Le reazioni, se appunto il presidente dei deputati del PDL Fabrizio Cicchitto ha difeso la linea del rigore del ministro Tremonti, quindi avere come primo obiettivo la tenuta dei conti pubblici, critiche all'impostazione della manovra sono arrivate dal presidente dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Ascoltiamolo al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Noi dell'Italia dei Valori denunciamo ancora una volta questo governo dei bugiardoni e delle false promesse. Avevano detto che aumentavano da 52 a 104 le settimane di cassa integrazione, che riducevano l'IRAP, che toglievano le tasse dalla tredicesima, e invece, come al solito, non hanno messo una lira per le fasce sociali più deboli. In compenso non hanno preso i soldi da dove andavano presi, dagli evasori fiscali e dai cosiddetti speculatori finanziari, che ancora oggi pagano il 12% di tassazione invece che il 25-30% come pagano tutti gli altri. Così Antonio Di Pietro, grazie a Dino Pesaro. Adesso le informazioni sul meteo e poi andiamo a commentare questa chiusura pesante, una bella scoppola oggi sui mercati, -3,60% Milano, -3,20% Parigi, -3,1% Francoforte, -3,2% Londra, l'America è chiusa per il giorno del ringraziamento. Che cosa è successo? Beh, sta per saltare per aria Dubai, o meglio, i fondi più importanti di Dubai hanno chiesto una moratoria incredibile, perché stiamo parlando di una moratoria su debiti complessivi, anzi una moratoria chiesta da chi ha 60 miliardi di dollari di passività. Buy in Dubai era il vecchio slogan, qui forse bisognerebbe dire sell in Dubai, perché il mercato immobiliare è crollato nell'Emirato e questo ha portato a una sovraesposizione di tutti quelli che avevano investito e delle banche che avevano prestito i soldi. Allora, veniamo alla borsa in questa parte di Focus Economia dedicata come sempre ai mercati finanziari. E dicevamo con un gioco di parole che lo slogan del mitico emirato di Dubai era Buy in Dubai. Se guardiamo quello che è successo oggi sui mercati è più Sell in Dubai, perché hanno venduto tutti gli investitori i titoli legati anche al mondo bancario per i timori che possa esserci un vero e proprio crack finanziario in quello che era il gioiello degli Emirati Arabi, il luogo più attraente per gli investimenti immobiliari. Se qualcuno di voi c'è mai stato, è impressionante quello che è stato costruito a Dubai, a partire dalle palme, ma non solo, insomma, con i grattacieli più alti del mondo. Insomma, che cosa è successo? Già si sapeva, ne parlavamo anche noi l'anno scorso, che Dubai era in grossa difficoltà con il crollo dei valori immobiliari, tant'è che l'anno scorso proprio gli Emirati Arabi, o meglio Abu Dhabi, dovete intervenire con, se non ricordo male, vado a memoria, però con 4 miliardi e passa di dollari di investimenti per aiutare Dubai, prendendosi anche una riscossa, perché Abu Dhabi ha sempre sofferto di un complesso di inferiorità nei confronti della scintillante Dubai. E evidentemente non sono bastati, perché appunto la società statale Dubai World ha 59 miliardi di passività e ha chiesto ai creditori di operare una moratoria sul debito. Di questo parliamo perché l'impatto sulle borse è stato immediato. Guido Maurino, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo dalle borse e poi andiamo sulla vicenda di Dubai. Cerca solo di aiutarci a capire in che modo ha avuto un'influenza così forte e poi arriveremo con un approfondimento apposito. Sì, allora, l'influenza è stata forte soprattutto sul settore delle banche e sul settore delle costruzioni. Il perché è facile da capire: da una parte, essendoci un forte indebitamento del Dubai, come dicevi anche tu, dovuto soprattutto all'indebitamento nelle controllate statali del settore immobiliare, ora un po' tutti stanno tremando rispetto a quelle che potrebbero essere le ripercussioni. Una prima analisi di Credit Suisse appunto stimava un'esposizione massima per gli istituti di credito europei in 40 miliardi di euro. D'altra parte, l'altro settore colpito è ovviamente quello delle costruzioni, perché comunque molte società europee, anche alcune italiane, hanno delle commesse negli Emirati Arabi Uniti. Queste commesse, in un momento di crisi finanziaria da parte degli Emirati Arabi, mettono a rischio i grandi progetti. Eh sì. Proprio recentemente c'è stata anche una missione del Presidente del Consiglio negli Emirati. Ma insomma, la situazione è molto delicata. Vi arriviamo tra un attimo, lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, 59 miliardi di passività. Non è uno scherzo per la società statale di Dubai. E poi c'è anche la controllata Nakheel, che ha chiesto di rinegoziare un'obbligazione da 3 miliardi e mezzo di dollari. Nakheel è quello che sta costruendo le isole a forma di palma, quelle che si possono vedere dall'aereo, insomma, le palme famose di Dubai, gioiello mirabile degli investimenti immobiliari architettonici. Vabbè, adesso arriveremo a questo. La borsa ha preso una scopola: meno 3,60% Milano, meno 3,40% Parigi, meno 3,30% Francoforte, meno 3,1% Londra. Domanda: come mai cala anche Pirelli del 5,7%, che è il peggior titolo, Exor del 5,4% come Mondadori e Mediolanum? Per le banche è già più comprensibile, ma insomma Pirelli, Exor e Mondadori. In realtà, perché questa ulteriore crisi finanziaria in realtà evidenzia come non siamo ancora usciti da una più generale crisi economica. Il settore auto in particolare oggi è stato molto penalizzato e Pirelli in qualche modo, facendo pneumatici per auto, appartiene un po' a questa fascia e a questo settore. Il settore auto è stato penalizzato perché molte società, soprattutto quelle tedesche, hanno nel loro azionariato appunto dei capitali arabi, e questo un attimino spaventa. Pirelli ha perso il 5,73%, sono molti comunque i titoli che hanno perso attorno al 5% oggi a Milano, e inoltre c'è anche una questione più propriamente interna alla società per quello che riguarda Pirelli, in quanto gli operatori ancora stanno concentrando la propria attenzione sulla riorganizzazione del gruppo, in particolare sul settore immobiliare dove opera la controllata Pirelli Re. Oggi il Sole 24 Ore scriveva che si è addirittura d'arrivo sui negoziati fra Pirelli Re e Fimit, e quindi insomma paga anche questa doppia esposizione, da un lato sul settore auto, dall'altro sul settore, sì, immobiliare. Allora, hai ragione nel ricordare appunto anche altre vicende di borsa. Per quello che riguarda le banche, attenzione, perché nel caso del Banco Popolare meno 5%, il peggior titolo bancario oggi in borsa, e Unicredito pure ha sofferto e non poco in borsa oggi. Però per questi due titoli vale anche il ragionamento sull'esposizione in Germania, Guido, perché ieri la Germania, la Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca, ha detto: attenzione, ci sono 90 miliardi di svalutazioni ancora in pancia alle banche tedesche, dopo che sempre ieri il Fondo Monetario ha detto che ci sono 50% di perdite ancora non dichiarate dalle banche a livello mondiale, e Unicredito perde 4,85%. Le costruzioni, Buzzi Unicem meno 4,70, in pregilo meno 4,70, invece si riconducono a Efimeccanica meno 4,90, e si riconducono al ragionamento che tu facevi su Dubai, giusto? Sì, e in gran parte quello. Poi vabbè, oggi ci sono anche usciti alcuni report che comunque hanno sempre una sorta di loro impatto, in particolare, se vogliamo proprio dire, ad esempio Buzzi Unicem è stata bocciata da Goldman Sachs, che ha dato un giudizio sell rispetto a un precedente neutral. Altri titoli del settore delle costruzioni in realtà hanno confermato i giudizi, per cui forse questo fattore spiega perché Buzzi Unicem sia andato più male, scusate, sia andato peggio in un settore che comunque è andato male. Bye bye Dubai, scrivono molti di voi. Insomma, vi ricordate, solo due anni fa ancora si discuteva di questo progetto faraonico delle palme visibili dall'aereo, visibili dai satelliti, e poi la famosa vela di Dubai, l'hotel con 202 suite, 300 metri d'altezza, rubinetteria d'oro, 7 stelle il livello, non 5, non 6, ma 7 stelle. E qui mi sa che siamo verso San Lorenzo, sia stelle cadenti, perché insomma, se hanno 60 miliardi di dollari di passività, auguri. E qui c'è anche un problema per la finanza islamica, perché sono obbligazioni islamiche da 3,5 miliardi da un lato, e l'altra Dubai World Limited a 1,2 miliardi in scadenza il prossimo 31 marzo. Guido Morino, per concludere, perché poi vorrei passare a Dubai, altre notizie che non riguardano le tensioni che si sono generate con l'annuncio e la richiesta di moratoria? Sì, allora segnaliamo soltanto un Safiro che oggi ha guadagnato, sì, il 5,99%. Il mercato attende di sapere se il gruppo può salvarsi o meno. Domani scade il periodo di offerta degli olandesi di Al sul bond. Gli olandesi appunto avevano posto come condizione per salvare il gruppo degli occhiali che ci fossero adesioni pari almeno il 60% sul bond. Insomma, si specula. Per il momento le ultime notizie che sapevamo era che aveva raggiunto solo il 43%, era stato esteso il periodo di offerta, e si guarda a domani per capire cosa succederà. Oggi sulla vicenda oltretutto è intervenuto anche il Financial Times, che accusa i fondi obbligazionari degli Stati Uniti che non vogliono aderire all'offerta di vandalismo societario. Quindi si sta a guardare che succederà domani. E va bene, quindi buona notizia almeno per Safilo, che in effetti è uno dei migliori, con un 6%, Mediterranee Acque più 6,20, Bioera più 9%, tra i peggiori invece la compagnia immobiliare azionaria, che perde il 9,7%. E qui chiedo a Walter Iolfi se insomma, i titoli immobiliari oggi sono stati particolarmente colpiti in borsa, ma soprattutto i titoli bancari. Grazie Guido Maurino, Walter Iolfi del Sole 24 Ore, per parlare dell'impatto di questa difficoltà finanziaria, per essere buoni, del Dubai World, che è il fondo sovrano per eccellenza di Dubai, 60 miliardi di dollari. Come mai una ripercussione così forte, Walter, sulle borse europee? Ripeto, meno 3,5 Parigi, meno 3,2 Francoforte, meno 3,2 anche Londra. Beh, ma tutto sommato è abbastanza contenuto l'effetto sui mercati finanziari globali, no? Cioè è più appariscente sulle borse europee, perché sono l'unica aperta, e l'America stanno mangiando il tacchino, e l'unica cosa a scendere è formalmente il future sulla borsa americana, che tra l'altro poco fa scendeva del 2,2%, ma probabilmente per opera di operatori non americani, no? Ma comunque Wall Street è chiusa. In Europa le perdite soprattutto sono arrivate da due settori, quelle delle materie prime, ovviamente, perché certo. C'è l'impatto, il petrolio è sceso a 70 sì, ha avuto una flessione già sì, in mattinata. A 76 dollari, quindi è ben lontano dai picchi di 15-20 giorni fa. Ecco, le materie prime e soprattutto le banche, no? Anche perché c'è un problema di esposizione soprattutto delle banche europee nei confronti di Dubai World. Ecco, soprattutto sono le banche inglesi, sembra, eccoci, e forse anche qualcuna francese, tipo BNP. Si sta facendo adesso il calcolo di quale banche sono esposte, e che molte banche non rispondono oppure minimizzano la cosa. Comunque, per esempio, in borsa Deutsche Bank ha perso il 6,4%, Barclays l'8,4%. Unicredit ha perso quasi il 5%. Non sappiamo se le banche italiane sono esposte, considerando che sono meno internazionalizzate delle altre. Persino Unicredit o Banca Intesa, c'è da ritenere che l'esposizione di queste banche, se esiste, è marginale, forse quasi trascurabile. Cioè, non dimentichiamo che un buco di 60 miliardi che potrebbe diventare 90 per l'intero stato del Dubai. Cioè, alla fine sono le rettifiche che ha fatto, anzi meno forse le rettifiche che ha fatto Citibank l'anno scorso e all'inizio dell'anno. Sì, bisogna vedere chi le pagherà. Comunque c'è un ascoltatore che scrive, beh, insomma, attenzione, non drammatizzate, ha chiesto una moratoria sul debito di 6 mesi. Sì, bisogna capire per che cosa e chi questa moratoria la pagherà. Comunque un calo del 6% su un titolo come Barclays, anzi dell'8% su Barclays e del 6% su Deutsche Bank, non è roba da tutti i giorni, perlomeno non dagli ultimi mesi, non da quando ci siamo lasciati la crisi finanziaria, nel senso più stretto alle spalle. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, per concludere l'approfondimento sull'impatto della crisi di Dubai su tutte le borse europee e poi parlare della privatizzazione di Tirrenia. Walter Iolfi, non mi è chiara una cosa: se ancora non si conosce quanto le banche europee siano esposte nei confronti del Fondo Sovrano di Dubai, che ricordo che si fosse messo in collegamento ha annunciato di avere 60 miliardi di dollari di passività e ha chiesto a tutti i creditori una moratoria, una sospensione del rientro da questo debito, e poi ci sono 3 miliardi e mezzo più 1,5, 5 miliardi di obbligazioni delle varie controllate. Dicevo, se non si conosce ancora l'esposizione, come mai, al di là del calo delle borse di 3 punti e mezzo in tutta Europa, come mai appunto Barclays perde l'8%, Deutsche Bank il 5%, da noi il Banco Popolare il 5% e Unicredit il 4,85%? Beh, in alcuni casi sappiamo che le banche inglesi più probabilmente Paribas hanno delle esposizioni nei confronti di Dubai World. Quanto non è ancora chiaro, alcune, per esempio HSBC, Barclays, avevano collocato anche recentemente i bond di Dubai World. Quindi probabilmente queste sono quelle più interessate, sono quelle che hanno le maggiori perdite. Però tutto sommato, vabbè, dopo questo momento di panico non sappiamo poi quanto, esattamente quant'è, ipotizziamo la cifra di 60 miliardi di dollari e non sappiamo quanto però sia effettivamente a rischio, no? Il problema è un altro, che questo ha turbato una tranquillità che i mercati si erano conquistata da marzo, no? Nella convinzione che la crisi del credito fosse finalmente finita e che nessun altro intoppo avrebbe potuto frenare questa corsa, questo rialzo di tutti quanti i mercati finanziari. In realtà questo qui ha dimostrato che questo, il percorso della ripresa, anche per quanto riguarda la crisi del credito, è fatto di intoppi. Ed è accidentato, tra l'altro sarà una coincidenza, ma proprio ieri da un lato il direttore generale del Fondo Monetario Strauss-Kahn ha detto ci sono ancora metà delle perdite delle banche che non sono venute fuori, sono ancora nascoste nelle pieghe dei bilanci a livello mondiale, e la Bundesbank, la banca centrale tedesca, aveva detto che ci sono 90 miliardi ancora di sofferenze passività bancarie nella sola Germania. Grazie a Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Noi cambiamo radicalmente tema, ci occupiamo invece di una privatizzazione che nei prossimi due giorni dovrebbe essere ufficializzata dal bando per chi fosse interessato, e mi riferisco alla mitica Tirrenia. C'è, povero me, che acqua gelida qua. Eh sì, perché al di là di Onda su Onda, qui stiamo parlando di un gruppo che riesce nel poco invidiabile primato di perdere per dipendente più di quanto non perdesse all'Italia. Nave son caduto, mentre a bordo c'era il bar. Precisione 73.000 euro per ognuno dei quasi 3.000 addetti di Tirrenia. All'Italia, nella parte più forte della crisi, perdeva 25.000 euro per dipendente. E allora da tempo si dice che dovrebbe arrivare il bando per la privatizzazione di Tirrenia. A questo punto, dalla dichiarazione del ministro ai trasporti Matteoli, il bando dovrebbe essere un problema di pochissimi giorni. E sentiamo su questo anche Antonio Tajani, commissario europeo dei trasporti, che oggi è intervenuto ed è al microfono del nostro Savino Gallo. Per quanto riguarda Tirrenia, l'Italia ha imboccato la strada giusta e credo che stia scegliendo anche i tempi giusti. La via della privatizzazione, che non era stata imposta dalla Commissione europea, ma comunque porta a seguire le indicazioni dell'Unione Europea, dopo appunto questa scelta della strada, il governo italiano ha deciso anche di accelerare i tempi rispondendo a una chiara richiesta della Commissione. Quindi non posso che rallegrarmi con il ministro Matteoli per le due risposte positive che ha dato. Adesso è importante che tutti quanti facciano la loro parte, comprese la Regione, perché c'è un problema di scelta di fondo che è stata fatta, ma c'è anche un problema di tempi. Il ministro Matteoli sta spingendo il piede sull'acceleratore e mi auguro che tutti quanti lo seguano. Tu stai danzando insieme a lui. Speriamo tutti che avvenga presto questa privatizzazione, anche perché, come ci racconta questa scheda, i conti di Tirrenia vengono ripianati ogni anno dallo Stato, cioè da tutti noi cittadini. È vero che Tirrenia è obbligata a fornire un servizio di collegamento che è in perdita per definizione su alcune rotte, ma insomma non è che la gestione sia stata proprio questo esempio di efficienza. Neppure la tanto bistrattata Alitalia era riuscita a fare altrettanto. Nel bel mezzo della sua crisi, la compagnia aerea perdeva 25.000 euro per dipendente. Tirrenia è arrivata a quota 73.000 euro per ognuno dei quasi 3.000 addetti. Oggi come oggi, i debiti che gravano sul gruppo navale si avvicinano al miliardo di euro. Le spese annue superano i 500 milioni, a fronte di ricavi che non raggiungono i 400. Ecco perché ogni anno il governo, azionista unico di Tirrenia attraverso Fintecna, versa tra i 180 e i 200 milioni di euro nelle casse del gruppo, consentendo alle 80 navi della flotta di continuare a navigare. La colpa del dissesto non è solo e soltanto della società, che è tenuta ad assicurare collegamenti anche su tratte in perdita per buona parte dell'anno. Certamente non sono però mancate scelte industriali dissennate, una gestione di flotta e personale non sempre improntate a criteri di efficienza. Basti ricordare i traghetti superveloci Taurus, Scatto e Guizzo, comprati nel 1999 per 500 miliardi di vecchie lire e dopo pochi mesi mandati in disarmo o stabilmente parcheggiati in porto perché consumavano troppo. Parlare di Tirrenia significa parlare di Franco Pecorini. Lui sì, inaffondabile amministratore delegato che guida la società ininterrottamente da 25 anni a dispetto di risultati di bilancio non certo esaltanti. Arrivato alla guida del gruppo nel 1984, Pecorini è sopravvissuto a 18 cambi di governo, stabilendo il record mondiale alla guida di una società. A circondare la guida indiscussa, una corte di 89 tra direttori, consiglieri e sindaci, uno ogni 34 dipendenti. Le cose dovrebbero cambiare con la privatizzazione avviata nel marzo del 2009 e che dovrebbe completarsi a fine 2010. Le linee regionali del gruppo, ossia Caremar, Siremar, Toremar e Saremar, sono state trasferite gratuitamente a Campania, Sicilia, Toscana e Sardegna, che potranno poi affidare il servizio in gestione. Sul piatto della privatizzazione rimane la Tirrenia vera e propria, che gestisce i collegamenti nazionali. Per rendere la pietanza più appetitosa per i potenziali acquirenti, lo Stato continuerà comunque a derogare sussidi. 185 milioni di euro l'anno per i prossimi 8 anni. Una dote che dal 2010 finirà nelle tasche dei futuri proprietari. E quindi non è tutta colpa dell'amministrazione, ma insomma, nel caso dei tre traghetti superveloci sono costati 500 miliardi di vecchie lire praticamente mai utilizzati. Allora, Tirrenia e la sua privatizzazione. Saluto e ringrazio per averci aggiunto in collegamento da un lato il collega del Sole 24 Ore, Raul De Forcade. Buonasera, Raul. Sì, buonasera. E dall'altro grazie anche a Silvano Cassano, che è presidente e amministratore delegato dei Grandi Navi Veloci, uno dei soggetti interessati a rilevare Tirrenia. Buonasera anche a lei, dottor Cassano. Buonasera a lei. Raul, rapidamente e in sintesi, quanto potrebbe ottenere il governo da questa privatizzazione? Perché i conti sono quelli che ricordava la nostra scheda di Tirrenia. Certamente adesso il dato del governo ancora è difficile stabilirlo quanto potrà ottenere, perché ancora non c'è stato un advisor che ha fatto un conto preciso di quanto può essere questo, e questo è proprio quello che ci si aspetta nel momento in cui incominceranno a venire le offerte per la società. Certo è che ci sono pareri contrastanti, diciamo, sul valore di Tirrenia, perché diciamo che un dato che riguarda il valore della flotta era il dato iscritto a bilancio di 855 milioni di euro, secondo la società broker indipendenti avrebbero fatto una valutazione di 1,08 miliardi di euro, ecco, mm-hmm. comprendendo ovviamente anche la flotta delle società territoriali. Vero è che però di solito gli armatori privati e anche Confitarma ha sempre ritenuto che il valore di questa flotta in realtà fosse minore, quindi ecco, è un dato questo tutto da giocare proprio in fase di privatizzazione, ecco. Allora, dottor Cassano, come Grandi Navi Veloci, visto che Tirrenia ha questo valore della flotta, diciamo 850 milioni, un miliardo di meno, insomma, ma questa è la cifra, però perde a 500 milioni di spese a fronte di 400 milioni di ricavi, che poi il resto è ripianato dal governo, voi quanto sareste pronti a offrire? Ma guardi, bisogna andare molto cauti quando si parla di una società che ha 3.000 dipendenti, che sono naturalmente uno dei punti nevralgici, perché va ad impattare la loro operatività, i sindacati sono giustamente molto attenti. Noi abbiamo cercato di fare un'analisi seria del bilancio 2008, perché altrimenti rischiamo veramente di dare i numeri, ed è francamente sorprendente che dalla società non emerga nulla. Speriamo che l'advisor, nel momento in cui il bando viene indetto, faccia un po' di chiarezza. Diamo per scontato che le regionali non fanno parte del discorso, quindi parliamo di Tirrenia SpA capogruppo. Guardi, la capogruppo a fine 2008, uno dei primi dati aveva 1737 dipendenti per un fatturato di mercato di 280 milioni di euro. E tenga presente che noi l'anno scorso abbiamo fatturato 300 milioni di euro, quindi diciamo più o meno la stessa grandezza, abbiamo 1000 dipendenti. quindi già questo è un dato da cui bisogna partire per fare delle considerazioni insieme al governo, naturalmente, no? Certo. Su questi ricavi di 280 milioni di Tirrenia Spa ne hanno persi 90, cioè che significa che ogni 3 euro di fatturato la società ne perde uno, indipendentemente dal valore della flotta. Hanno chiesto contributi allo Stato per 101 milioni di euro, perché c'è anche la retribuzione del capitale. Sulla flotta, francamente, è abbastanza inutile fare dei discorsi adesso, perché quello che si fa di solito, si dà mandato dei broker internazionali di fare delle valutazioni, certo, di mercato. Mm-hmm. Diciamo che vale, secondo noi vale la metà di quello che è indicato, ma francamente non è importante, mm-hmm, perché gli advisor sono persone serie, sanno quello che devono fare, per cui rimandiamo la partita. Ho capito, certo, prego. Aggiungo solo un ultimo punto e le chiedo scusa. Prego. Certo che lo stato patrimoniale è preoccupante, perché i debiti, come ricordava giustamente le forcade, sono superiori agli 800 milioni di euro, quindi mm-hmm, il problema è che la società non genera cassa. Adesso tutti hanno in mente la pratica all'Italia, anche i sindacati, no? All'Italia sono stati offerti dei prepensionamenti fino a 7 anni di annualità per gestire gli esuberi. Il problema non è dei marittimi, il problema è del personale amministrativo nella sede di Roma e di Napoli. Possiamo fare alcun commento intelligente finché il bando non viene messo? Allora, al di là quindi del commento, diciamo, sul bando, poi vedremo cosa dirà anche l'advisor. Voi cosa vorreste fare di Tirrenia, visto che voi avete 10 navi, avete collegamenti come grandi navi veloci con Sardegna, Sicilia, Spagna, Marocco, Malta, Tunisia, a che tipo di integrazione pensate? E poi se mi dice anche perché avete dichiarato che voi non volete parlare con Pecorini, con lo storico numero uno sovrano, dicono alcuni, di Tirrenia, ma solo con Fintecna. Se riusciamo a farlo in 2 minuti mi fa felice. Non è che non vogliamo parlare con Pecorini, ho incontrato Pecorini un paio di volte, non c'è nulla contro Pecorini, è che riteniamo che sia Fintecna, come rappresentante dell'azionista, il naturale riferimento. Di solito in trattative di questo genere si comincia a parlare con i rappresentanti degli azionisti, ma al di là di questo punto, noi, naturalmente il mercato non si ferma, noi stiamo sempre più andando verso la conquista del Nord Africa, del Maghreb, Tunisia, Marocco, Algeria e Libia, non solo dall'Italia, e servono delle navi particolari. Dico solo una cosa, noi siamo gli unici operatori che servono da Genova, quindi dal nord, alla Sardegna tutto l'anno, e non abbiamo mai chiesto un euro di contributo. La nostra stima è che Tirrenia perda dalle rotte verso la Sardegna tra i 40 e i 50 milioni di euro l'anno solo verso la Sardegna. Quindi lei capisce che c'è un gap notevole da colmare. Noi avevamo fatto una proposta a fine agosto, che era un po' un compromesso, no? Perché non si riusciva a capire da dove eventualmente il governo, che sta lavorando molto bene, sì, su questa pratica complicata, potesse tirare fuori i soldi necessari. Capisco che non vada nella direzione giusta, ma non credo che oggi ci siano degli operatori interessati a rilevare Tirrenia Spa senza delle congrue doti, perché chiaramente bisognerà mettere 3-5 anni di tempo. Anche ecco, perché la relazione col sindacato è indispensabile. Siccome siamo in chiusura, mi dice se confermate che voi l'interessa a noleggiare Tirrenia per 5 anni con l'opzione di acquisto, sì, dopo 3? Sì, è questa? Sì. Okay. Noi avevamo fatto questa ipotesi a fine agosto, c'era stata una mia intervista proprio a Raul De Forcade sul Sole, perché permetteva di gestire con 3-5 anni di molta calma Fintecna, con degli introiti sicuri, tutta la partita degli esuberi, eccetera. Capisco che non possa essere la soluzione ottimale, però sono molto ansioso anch'io di vedere chi parteciperà mettendo dei soldi veri. Noi di certo non li metteremo. Ecco, questo era già molto importante, visto che voi come grandi navi veloci siete considerati l'acquirente più forte, il potenziale acquirente più forte. Torneremo a parlare di questo anche col dottor Cassano e con Raul De Forcade. Da Sebastiano Berisoni a voi in ascolto l'auguro di una buona serata. Aspettiamo a questo punto il bando di Tirrenia, problema di 2 giorni da quello che abbiamo capito da fonti ministeriali. Intanto vi auguro buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.